Radio Sardegna più. Francesco, mandami a Lucca per favore. 2702, sto scaricando la Fish B2702 da 40 cartoni. Francesco, la distruzione quanti posti pallet occupa nel bilico? Fra, quanti spazi occupa i pallet della distruzione domani? Me lo dici che lo vuole sapere Andrea? Mi date qualche foglina di piattaforma se ce l'avete pronta? Francè, una spiripizza da sostituire a Consorzio Europa per Cagliari, gliela diamo oggi? Mi date qualche foglina di piattaforma per favore? Molla dell'Algida. Francè, controlla il lotto delle pappardelle cinghiale per favore. Accudite. Chi è là? Papucchio. Ehi, Ernia. Ehi, te fratello. Il cacciofo. Papoglio. Urbia. Fogliti il culo. Sì, va bene. Quando vuoi truccarlo. Papoglio. Ernia è presente. Ci sono i colluti in giro. Io le sono d'accordo. Sono uscito per un vento. Di qua mi specialmente, per carità. C'è altro che sta piegando. Per carità. Cic. Beh, Pompu. Beh, Luca. Dormito, sì. Non sono lamentato, sono tutto il giorno in giro, perché se lamentato magari. Ma già mi senti, sì? Voglio che ti ascolto. Forte e chiasso, bene mi senti? Benissimo, benissimo. Sì, se ne vado, figurati. E tu si affonda la scala. Beh, glielo guido. Con la tela che mi canta pure. Sopra il tetto, già non credo che è alto guadagno quella che c'ho. Mi lascio, andiamo a mangiare, va. Andiamo a cena e poi a dudù. No, io mi ho accennato adesso. Mi sono sentato poco fa. E ho accennato, adesso devo scendere giù a dare da mangiare a Giampiero, lavarlo e poi me ne salgo su. Su dove? A casa me ne salgo dopo. A casa mia, adesso scendo prima da lui. Perché è alla sola. Capito? La mandante è malattia, quindi. Si aiuta pure e allora adesso me ne parlo. Ma allettato, no? Ehi, allettato. È un casino, via. Quando è così purtroppo vi fanno girare, cambiarli il coso, la traversa, cambiarli le lenzuola. Capito? Poi togliere l'urina, svuotarla, anche perché la fa con la Coca-Cola a casa. Picchiata, e cosa vizi? Acqua beve. E allora mai, evidentemente sta già cedendo, capito? Perché ha durato più di 6 anni, mi Giampiero. Adesso è pesa il doppio di quando era saggesta, figurati. Si è gonfiato un po'. Se uno si abusa di quello che faceva, purtroppo, non puoi. Se te lo regoli, te lo bevi fino a 100 anni, però se ne abusi dall'inizio, poi non puoi toccare manco una puntina. Guarda, si è bevuto un mese di mirto, Giampiero, un mirto al giorno, di quelli dello spì. Quindi perché non è crollato? Un mese, giusto. Era stato bevendo birra normalmente come faceva prima, per dire. Sarebbe stato ancora con le gambe sue. Ti credo, cioè. Stiamo parlando di una cosa molto pesante che fa male. Poi dolce, mamma mia, ma credo come ti fa il fegato quello. E quando faceva la pipì la faceva le colore del mirto, figurati, perché lui solo quello beveva. acqua ne aveva poco e niente, quindi figurati, a mangiare mangiava, non vorrei che mangiasse molto, ma però diciamo che dopo che è stato ricoverato di saggezza, gli hanno fatto la piano piano cominciato a calare il peso, da 120 che ne pesava a 130 è calato a 80, capito? Ci vuole l'acqua, vedi, io la birretta me la bevo, per dire, adesso a pranzo la birretta me la sono bevuta, stanotte mi sa di no, o forse sì, adesso vediamo, là. Però non è che sto sempre così bevendo, no. Mi devo la regolata, capito? Mi devo adesso la regolata. Prima la facevo pure comunque con i liquori, non così, non la butti dal giorno, ma due, tre, così. Poi non l'ho mollata. No, i liquori proprio io. Una volta, tanto tempo fa, io ti parlo quando ero di Rizzedo, bevevo i ramazzotti. Poi una mattina, lì in conseguito di Emanuele, mi ha giubito due, quattro, sono andato via a fare la carta d'identità a Simona, cazzo, c'era un freddo fuori, si dice che mi sono tolto il giubbotto, perché stavo suonando come un coso, come un porco, e via l'ho mollato tutto, non è più bevuto di quella roba lì, solo birra e basta, capito? Andavo via al bar per dire un giro uno, un giro l'altro, eccetera, eccetera, quelle 5-6 birre al giorno le bevi tutti i giorni, però mangio, non è che non mangio io, grazie a Dio mangio tranquillo, mangio bene. Sì, quasi se non mangi, ragione non ti ammazza, ti ammazzo le mani di tua stessa. E infatti, tutto per quello, no, mangio i fagiolini, i lattughe, iceberg, tonno, molto pesce sto mangiando, vedi? Un po' con la pasta con le sughero scoglio che c'è lì nello spin, poi l'altro con la zuppa di pesce, capito? Ci metto gli spaghetti e mangio, vado una bella spaghettata con quella roba lì, quindi mangio molto pesce, che fa bene il pesce. No, io queste cose le faccio fresche, le cose le compro fresche, le cucino io, tipo pasta ai gamberi così, roba fresca, no, roba congelata. Sì, ogni tanto già la prendo, ma non è la matessi cosa. Sì, vabbè, di fresco compro. Vabbè, adesso non c'è nulla, già l'hai visto. C'è il fermo, quindi. Compro quelle sardine di Ruspì, me ne faccio al sughetto. E quelle aperte e quelle che sono chiuse. E basta. E sono abbastanza fresco, ho visto, anche se magari siamo venuti per dire di 2-3 settimane prima, già lo sai che viaggiano quella roba lì suggerata, quindi, però quando lì una volta che le compro le cucino subito. Certo che sì, casino, vabbè dai, pompo, grazie, lo mangio, poi me devo salire a casa che c'ho un PC da finire. Ci sentiamo, dai. Buona sera, buon tutto, dai. Saluto a Giampiero. Ciao. Ok, ciao Luca, ci sentiamo, salutami. Ci sentiamo al limite domani. D'accordo, già ti saluto Giampiero. Se c'è qualcuno, non c'è più nessuno ormai, manco baracchino, tutti morti, dai, ciao. Sì, vabbè, in PV c'ho sempre acceso io. Nel caso che entra qualcuno, già sono sempre qua. Gli ho detto a Giuseppe di riaccendere ogni tanto. Allora vediamo, se si indagana. Prima era sempre tutto pieno, la poi è diventato un casino, e sta piantando di sopra, prima eravamo 10, 12, tutti qua. Allora dove finisce? Vabbè, baracchino, più che gente su 23 qualche volta non c'è. Ieri ho parlato con Coso, su 15. Ho due cibi che c'erano e basta, boh. Non c'era nessun altro. Vabbè, dai. Vabbè, dai, che ce la pronta, ciao. Ciao, ci sentiamo.